Siamo al telefono con Pierpaolo Capovilla perché il 27 maggio esce un nuovo album, un nuovo progetto che si chiama Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri. Intanto grazie Pierpaolo di essere qui con noi su Radio Città Fujiko. Grazie a te, felice di esserci. Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. E quindi un nuovo progetto, un nuovo album, cosa ci dobbiamo aspettare? Vabbè, è un disco rock, un rock radicale, massimalista, come è sempre stato nella mia esperienza artistica e professionale, quindi nulla di nuovo, diciamo, però visti i tempi che corriamo, questo è un disco forse il più politico che io abbia pubblicato in vita mia. Le canzoni nascono parecchi anni fa, tra il 2018 e il 2019, poi c'è stato ovviamente, sappiamo, l'emergenza sanitaria, la pandemia, tutto si è fermato, quindi con tutto comodo abbiamo registrato quando potevamo, abbiamo riascoltato mille volte le canzoni, forse questo è il disco più ragionato, ecco, per motivi indipendenti dalla nostra volontà, però alla fine per la prima volta in vita mia non vado in studio di fretta e furia, ci sarà un mese e poi pubblico, ma con calma, con comodo, con grande riflessione collettiva abbiamo fatto canzone per canzone, abbiamo fatto questi 10 pezzi che ahimè sono quasi tutti l'argomento, diciamo, il tema del disco è purtroppo la guerra, ed eccoci qui con la guerra in corso. Purtroppo, esatto. L'hai definito l'album forse più politico, tra l'altro nei tuoi progetti passati la politica è sempre stata dirompente, la critica sociale. In quest'album ci sono dei temi anche particolari, magari sentiti anche dal punto di vista personale, penso, non so, alla canzone dedicata a Lorenzo Orsetti. Ti chiederei un pochino riassuntivamente quali sono i temi delle 10 tracce dell'album. Guarda, adesso il disco incomincia con un pezzo terrificante, sentito La morte ai poveri, tanto per essere chiari. E quello, ad esempio, quella è una canzone ispirata a ciò che accadeva nel 2019, appunto, mentre scrivevo la canzone. Al Ministero degli Interni c'era un tale Salvini e si chiudevano i porti ai migranti, il canale di Sicilia diventava un immenso, spaventoso cimitero per migliaia di africani, subsahariani, iracheni, i migranti, la figura del migrante. E poi c'è la guerra, perché c'è la guerra del Golfo, ad esempio, una canzone sentita proprio così. E ma non c'è soltanto la guerra fatta di missili e proiettili, c'è anche la guerra interiore, se vogliamo. Ecco, ad esempio, una canzone come Anita, che è il racconto di un divorzio, cioè quando un uomo e una donna non si capiscono più, non si arriva a fine mese e alla fine prevale, come dire, quell'individualismo che ci porta a pensare a noi stessi, con rammarico, ma spesso accade proprio questo. La canzone invece, La città del sole, di cui tu accennavi un attimo fa, quella dedicata a Lorenzo Orsetti, anch'essa è una canzone di guerra, è una canzone d'amore, cioè è vestita con il vestitino elegante, se vogliamo anche un po' sexy, della canzone d'amore, però narra di un uomo che è Lorenzo Orso, detto Orso Orsetti, che è andato a combattere per una causa giusta, che è la causa del Rojava, del confederalismo democratico, e Lorenzo è stato un vero e proprio partigiano contemporaneo, ecco. Quindi la guerra, perché la guerra è ovunque, leggevo un paio di giorni fa, ci sono qualcosa come 59 conflitti armati nel mondo in questo momento, ora ne abbiamo uno vicinissimo perché nel cuore dell'Europa, che ci lascia tutti quanti molto dubbiosi, diciamocelo, molto... non solo spaventati, ma anche rammaricati. Io direi, almeno questo è il sentimento che provo io. Sembra quasi che la guerra sia il cuore, ossia al cuore pulsante del sistema economico in cui viviamo, del capitalismo. Sembra quasi che il capitalismo non possa sopravvivere senza conflitti armati. Ecco. Bellissimo, purtroppo sempre più attuale questa cosa, di cui già peraltro in alcune canzoni anche col Teatro degli Orrori si accennava. Sì, ma guarda, il percorso è lineare, diciamo, ha sempre avuto una sua coerenza. Se ci penso, la mia band storica, quella prima del Teatro degli Orrori, One Dimensional Man, il nome stesso della band, Uomo a una dimensione, è tratto dal famoso saggio di Herbert Marcuse, che va proprio a frugare lì, ad indagare lì su che cos'è il capitalismo. riflessione su che cos'è il sistema di cose in cui viviamo, su quali sono i confini entro i quali vengono, questa è una cultura critica, dico io, i confini entro i quali vengono costrette le nostre esistenze. Una volta che noi cerchiamo di indagarli, quei confini, li possiamo osservare, una volta osservati e possiamo incominciare a sperare di poterli superare. Io credo che la canzone popolare e il rock, nel caso nostro, possa servire anche a questo. Allora, dicevamo, tornando magari un po' alla parte più musicale, no? Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri sarà, oltre al nome del progetto, anche il nome dell'album, appunto. Nuovo progetto, nuova formazione, quindi chi c'è al tuo fianco in questa band? Chi sono questi Cattivi Maestri? Allora, c'è un picchiatore di tamburi con Marco Antonio di Macerata, suona con Veda e con tante altre esperienze, si chiama Fabrizio Baioni, c'è Federico Aggio proveniente da una band che si chiama Lucertula, che ha avuto anche un suo nome, diciamo, nel panorama del rock indipendente italiano. Lo chiamano noise rock, io lo chiamo rock e basta, perché non vogliono dire niente queste etichette, no? Si chiama Federico Aggio, vive qui a Venezia, dove vivo anch'io, quindi siamo belli comodi, insomma, siamo nella stessa città, ma soprattutto siamo amici da tanto tempo, ecco. E poi c'è Gleison Macalda, che direi che non ha bisogno di presentazioni, che ha detto il massimo volume, tantissimi dischi pubblicati e tanti progetti, e soprattutto un poeta della sei corde elettrica. Ecco, è lui che fa indubbiamente la differenza dal punto di vista del suono, dello stile e della ricerca di questo stile in questo disco. Perché qui c'è stato un coniugarsi fra il rock ipermassimalista, a cui io sono sempre stato particolarmente affezionato, ed un approccio chitarristico invece decisamente intellettuale. Ecco, Reg è un poeta e un intellettuale della sei corde. Sì, allora non vediamo l'ora, tra l'altro, ad ascoltarci questo album che arriva venerdì ed è veramente carico e potente. Non vedo l'ora di suonarlo dal vivo, amico mio, altro che. Dimmi, ecco, a proposito di questo, ci sono già delle date in programma per l'estate, per i prossimi mesi? Sì, certamente abbiamo già pubblicato 7-8 nei nostri canali social. La prima sarà proprio a Bologna, al Freak Out, il 28, sarà il debutto. Quindi il 28 di maggio, che è sabato, cavoli, bene, certamente, sarà un disastro. Fantastico. nessuno sarà qualcosa di catastrofico, no, lo stiamo preparando con grande cura, quindi prove settimanali da mesi, abbiamo ragionato su di una scavetta, vogliamo che sia qualcosa di molto teatrale, ecco. Quindi insomma speriamo di centrare l'obiettivo, io sono fiducioso. Direi che non c'è motivo per non esserli. Io volevo chiederti allora, la copertina dell'album, anche qui una scelta per niente banale e molto particolare. Cosa sì. rappresenta e come è venuta l'idea di questa copertina così? Nasce da un'amicizia stretta con Vasco Mazzovic, che è l'autore dell'opera in copertina. L'opera si intitola Il Cristo deluso. Vasco è un mio grande caro amico. 33enne, vive ad Alghero in Sardegna, ed è un romani, però non si chiamano zingari, si chiamano romani. Una minoranza etnica che è sempre stata la più emarginata, la più spinta verso i bui, tenebrosi confini della stigmatizzazione sociale. E io sono orgoglioso di avere per amico Vasco Anzovic, degnissimo rappresentante della minoranza romani. Vasco è un pittore talentuoso, gli ho chiesto io, il soggetto, gliel'ho proprio chiesto io, volevo un Sacro Cuore di Gesù con una spalcia bello che ci brillasse dentro. E sì, perché c'è qualcosa che ci lega, no? i compagni comunisti, alle sorelle, ai fratelli cristiani, ed è forse il rammarico di un'umanità che va sempre nella direzione della violenza e della prevaricazione. E quando tutto ciò che desideriamo non è la non è Marte, ma è la pace. È una cosa molto semplice, è un desiderio apodittico, se vogliamo, non si capisce perché debba essere sempre contraddetto e deluso dalla realtà storica. Ah, sono d'accordo, sembra che essere per la pace in questo momento sia quasi contro natura, non si capisce il motivo per cui la pace venga vista così male in questo momento, è assurdo. Beh, viviamo in questo momento, proprio in particolar modo nel nostro paese, viviamo un clima bellicista che io non avevo mai esperito prima. Okay? Io da che sono nato sono in guerra, sono classe 1968, si stava la guerra in Vietnam, poi mille altre guerre, mille colpi di Stato, si è seminata miseria e morte in tutto il mondo per 54 anni, è la mia età, okay? Sono molti di più naturalmente, e mi viene da chiedermi, me lo chiedo, ce lo chiediamo in questo disco, perché scrivere canzoni non significa semplicemente dire la propria, no? Esprimere la propria opinione, significa anche, come dire, cercare un perché alle cose, è un processo, la canzone rappresenta pur sempre il momento finale di un processo di autoapprendimento. Io ti ringrazio infinitamente per il tempo che ci hai dedicato. Ricordiamo Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri, il nuovo album esce venerdì 27 e sabato 28 la prima uscita live qui a Bologna al Freakout Club. Ti chiederei per salutarci, magari se vuoi lanciare un invito, un saluto alle ascoltatrici, gli ascoltatori di Radio Città Fujiko e un brano dell'album con cui finire l'intervista. Ma io ti proporrei un saluto bello collerico, diciamo, ti proporrei proprio Morte ai Poveri, che è il pezzo che apre il disco, e non lo apre per caso, ne abbiamo discusso a lungo con la band, anche con Manuele Fusaroli, il produttore artistico, e l'album doveva aprirsi con il pezzo più sfacciato in assoluto, prendere o lasciare, come dire, questo è rock, ok? E noi veniamo da una scuola del rock che è quella americana della fine degli anni 80, ovviamente di tutti gli anni 90, di quel rock molto consapevole, politicamente attivo, quello dei Fugazi, dei No Means No, dei Jesus Lizard, degli Shellac, ma anche dei Black Flag naturalmente, dei Dead Kennedys, ecco, questo è Morto ai Poveri, tra l'altro c'è una coincidenza piuttosto evidente fra una canzone di Dead Kennedys, Kill the Poor, no? e questo Morto ai Poveri, è una canzone veramente ispirata da quel suono di quello di Dead Kennedys, e questo per specifica desiderio, volontà proprio di Egerton McCall. Anche Egri ha un paio d'anni più di me, okay? Lui è classe 66, no? Quindi veniamo da quella cosa lì terrificante che era quel rock politico, impegnato e speranzoso anche, speranzoso, che ha costituito un momento cruciale del nostro percorso intellettuale, culturale e naturalmente artistico. Fino a 20 anni fa, pensiamo a Genova 2008. A Genova 2001. Fino a 20 anni fa i nostri ragazzi, e non soltanto loro perché la questione era assolutamente intergenerazionale, i temi e le istanze di Genova nel 2001 erano tutti e tutte giuste e urgenti, e lo sappiamo adesso 20 anni dopo. Bene, insomma, fino a 20 anni fa potevamo ancora pensare ad un futuro diverso, ad un mondo migliore possibile. Oggi, passati 2 decenni, l'unico futuro che i nostri ragazzi percepiscono realistico è la catastrofe. Siamo giunti ad un punto, temo, di non ritorno. Ecco allora che il rock e la canzone popolare, lo ripeto e lo ripeterò finché vivo, possono farsi testimonianza e contribuire ad un rinsavimento della coscienza collettiva nel paese. Morte ai Poveri, dunque. Mamma mia, ok, grazie mille Pierpaolo, direi che non abbiamo nulla da aggiungere, e a sabato allora, grazie. A sabato assolutamente, speriamo di trovarci in tanti, sarà un bel momento per tutti quanti, mi auguro davvero. Grazie a te e alle ascoltatrici e agli ascoltatori.